GR24, il sole 24 ore. GR24, ben ritrovati. Questi titoli di oggi: corruzione, Napolitano premier, l'Europa a chiederci una legge. Dopo le dimissioni della Polverini, oggi Berlusconi riunisce il PDL. A Milano sfiorato il tamponamento tra due treni della metropolitana, paura tra i passeggeri, 11 feriti, grave il macchinista. Consumi ancora in calo a luglio, secondo l'Istat sono scesi anche supermercati e discount. Il rapporto Svimez mette in luce: il sud è sempre più fermo. Cesare deve morire dei fratelli italiani, il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con GR24. Dunque, dopo le dimissioni di Renata Polverini per lo scandalo dei fondi PDL Lazio, sono molte le regioni che tremano per la gestione di questi fondi ai partiti. I filoni aperti, secondo alcuni giornali, riguarderebbero diversi consigli regionali, tra cui Calabria, Molise e Sardegna. E la questione è rimbalzata oggi anche all'incontro delle regioni. Allora facciamo il punto con Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così, buongiorno. Le conseguenze del Lazio Gate e le varie indagini in corso preoccupano chiaramente i governatori. Di riduzione dei costi della politica, trasparenza dei conti e terzietà dei controlli si sta parlando nella riunione della conferenza delle regioni che è iniziata stamattina a Roma. Sentiamo cosa ha detto arrivando il governatore della Calabria, Scopelliti. Io spero che questa diventi un'occasione, un'opportunità per riflettere ancora più a fondo e per dimostrare che quando abbiamo detto più volte al governo che bisognava intervenire perché noi con i tagli e le spending review, con le varie manovre andavamo in difficoltà, questo probabilmente era un allarme giusto, però dall'altro non abbiamo fatto ciò che era necessario. Di trasparenza dei conti regionali ha parlato anche il governatore della Lombardia, Formigoni, anche lui, lo ricordiamo, alle prese con lo scandalo per le inchieste sulla sanità lombarda. Sentiamolo. Noi abbiamo già provveduto da tempo, per esempio, a sottoporre le spese per i gruppi politici, che sono comunque molto inferiori a quelle del Lazio, al controllo della Corte dei Conti, e da ieri abbiamo anche stabilito, prima regione in Italia, di sottoporli al controllo di una società terza che certificherà i bilanci. Quindi da noi la corruzione proprio non abita di casa. Questo era Formigoni. Alla riunione infine partecipa anche Renata Polverini, la governatrice dimissionaria del Lazio, ha smentito la notizia di un nuovo consiglio regionale nel Lazio sui tagli ai costi della politica. Per ora è tutto, Alessio. Grazie Andrea. E oggi è intervenuto anche Napolitano sulla questione della corruzione. È l'Europa a chiederci un grosso impegno di lotta contro la corruzione, ha detto il Presidente della Repubblica, che oggi è intervenuto anche alla presentazione del rapporto Svimez sul Mezzogiorno. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. Così, nuovo affondo di Napolitano contro la corruzione. Il capo dello Stato oggi torna a chiedere un grande impegno per combatterla e soprattutto che si acceleri sull'approvazione del DDL anticorruzione fermo al Senato. E l'Europa, spiega il Presidente della Repubblica a margine di una mostra alle Scuderie del Quirinale, a chiederci di colmare un gap su questa materia perché, ha aggiunto, siamo messi molto male. Napolitano, che oggi è intervenuto anche sulla situazione economica del nostro Paese, chiedendo misure urgenti per la crescita e più equità nelle politiche di austerity. Questo in sintesi il messaggio inviato alla presentazione del rapporto Svimez 2012. Preoccupano il capo dello Stato soprattutto i dati relativi all'andamento dell'occupazione in tutte le aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno e per le generazioni più giovani. È necessario dunque, scrive Napolitano, che la politica di rigore parta dai ceti più abbienti ed è anche necessario un più forte impegno dell'Unione Europea a sostegno degli investimenti strategici. Una preoccupazione in linea con i dati emersi dal rapporto, che raccontano di un Mezzogiorno con un tasso di disoccupazione a 25,6, con 1.300.000 persone emigrate in 10 anni, continuando così, si legge nel rapporto Svimez, ci vorrebbero 400 anni per recuperare lo svantaggio che separa il sud dal nord. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Questo dunque è l'intervento di Napolitano, che ricordiamo ha invocato nuovamente una legge sulla corruzione. Tutto questo mentre il PDL, scosso dallo scandalo in Lazio e dalle dimissioni di Renata Polverini, riunisce oggi i vertici del partito chiamati da Silvio Berlusconi e l'incontro dovrebbe essere già iniziato. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Un vertice, quello convocato dal Cavaliere a Palazzo Grazioli, utile per fare il punto sulle questioni interne al partito, anche alla luce dello scandalo che ha investito il Popolo della Libertà nella Regione Lazio. Oltre al segretario Alfano ci saranno tra l'altro i capigruppo e i coordinatori. Ma quali le basi di partenza del dibattito interno? Le ha dettate ai suoi più stretti collaboratori lo stesso Berlusconi? Necessità in primo luogo di rivoluzionare il sistema delle candidature per bloccare l'arrivo di nuovi Fiorito, poi ragionare sulle strategie in vista delle elezioni politiche anche con un occhio al ruolo di Mario Monti. Due dunque i livelli di intervento, uno affidato da Angelino Alfano a cui aspetta la messa in pratica dell'operazione pulizia per evitare che il partito sia appunto accomunato a personaggi come l'ex capogruppo in Regione Lazio finito nello scandalo. Diverso è invece il lavoro del Cavaliere che oltre a fare luce sulla sua discesa in campo dovrà chiarire il ruolo delle alleanze in vista delle politiche con l'impegno più gravoso che resta quello di riannodare rapporti comunque logori, vedi la Lega di Maroni o da tempo archiviati. È il caso dell'UDC di Casini e da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo e adesso è arrivato il momento di tirare qualche riflessione insieme a Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Se qualcosa si riuscirà a fare nelle prossime settimane nel campo della spesa per la politica, e parliamo degli sprechi intollerabili emersi un po' dappertutto a macchia d'olio, ebbene se qualcosa si riuscirà a tagliare lo dovremo all'azione congiunta di Napolitano e Monti. Le parole severe del Capo dello Stato ieri non hanno lasciato adito a dubbi e la determinazione del Premier quando non è frenato dai partiti è più che evidente, il che ci porta a due conclusioni. La prima, forse stavolta si riuscirà a ottenere qualche risultato grazie all'azione congiunta di due figure istituzionali come il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio. Secondo, le forze politiche hanno perso l'ultima straordinaria occasione di diventare esse le protagoniste del rinnovamento e della riforma, diciamo così, morale. Hanno avuto almeno un anno di tempo, ma lo hanno sprecato. C'è il rischio che gli elettori, quando di qui a poco si andrà a votare, se lo ricordino. Così dunque Stefano Folli, chiudiamo l'ampia pagina politica e adesso invece parliamo della cronaca e andiamo a Milano, sfiorato un tamponamento tra due treni della metropolitana della linea verde e allora ci colleghiamo di nuovo con Maria Chiara Grandis per capire un po' che cosa è successo, ci sono anche una decina di feriti, Maria Chiara. Sì, buongiorno Alessio, potrebbe aver avuto un malore il macchinista del treno della metropolitana verde di Milano che questa mattina intorno alle 10 ha tamponato quello che lo precedeva fra le stazioni di Garibaldi e Gioia, la direzione era quella di Gessate e quindi verso l'esterno della città. 11 feriti secondo i primi accertamenti, 9 quelli lievi assistiti sul posto alla fermata della metropolitana Gioia, qui sono intervenute 12 ambulanze del 118, 2 feriti invece in condizioni più serie sono stati portati al pronto soccorso, tra loro c'è anche il macchinista del secondo convoglio. Schiacciamento toracico e frattura alle gambe sembrano al momento le ferite più gravi, preoccupazione anche per lo stato di una donna incinta trasportata all'ospedale Buzzi, ma anche questa situazione si sarebbe risolta. Molti contusi che hanno ricevuto le prime cure in superficie dopo essere rimasti bloccati per un quarto d'ora circa in galleria. Alcuni di loro ci hanno raccontato di aver aperto le porte dei treni azionando la leva d'emergenza. Altri invece spiegano di aver percepito durante il viaggio che qualcosa non andava nella guida del macchinista. Ecco le loro voci. Una frenata, ho messo le mani in avanti, ho visto della gente che è scivolata in avanti. Una frazione di secondo è andato via la luce. Noi veramente dentro avevamo pensato un malore del macchinista, perché c'era una guida un po' strana, nel senso non sicura. Una signora che c'era vicino a me mi ha detto già che era successo verso Sant'Agostino una frenata un po'. Io stavo leggendo, quindi non mi rendevo conto. Chi volava, chi ha capito? Ho visto un signore che ha fatto un 7-8 metri, cioè era anteriore a me ed è venuto verso di me. Di errore umano parlano anche l'azienda dei trasporti milanesi e la polizia locale che ha completato i rilievi sulla banchina della stazione Gioia. Prima di chiudere, un'informazione di servizio sulla metropolitana 2, la circolazione è ripresa in entrambi i sensi di marcia nel tratto fra le stazioni Centrale e Garibaldi, dove però transitano treni che non si fermano nella stazione di Gioia. E per il momento è tutto. Grazie Maria Chiara dunque per questi aggiornamenti sull'incidente avvenuto questa mattina nella metropolitana di Milano. Abbiamo sentito in apertura l'appello di Napolitano sulla corruzione e la crescita e la presentazione dei dati sul mezzogiorno, sulla mancata crescita nel sud. C'è un altro dato economico di oggi ed è la frenata dei consumi degli italiani a luglio. Le vendite al dettaglio, secondo l'Istat, hanno registrato un ribasso dello 0,2% su base mensile, dopo due mesi in cui erano invece stati positivi i dati sui consumi. Nell'ultimo anno il calo a questo punto è del 3,2% e il segno meno, questa è la notizia forse più importante, non è più, riguarda più solo i piccoli negozi ma anche la grande distribuzione, meno 2,3%, e i discount alimentari scesi dello 0,1%. Parliamo di scuola. 11.542 i posti disponibili nel concorso per la scuola di cui è stato pubblicato ieri il bando, ed è al sud che andranno più cattedre, con Campania, Calabria, Puglia e Sicilia che si accaparrano il 40% dei posti. E per sapere tutto del concorso sulla scuola vi ricordiamo che potete andare sul nostro sito, alla pagina Scuola in Controluce, dove potete trovare anche le indicazioni per scrivere ai nostri esperti con le vostre domande. Andiamo all'estero, in Francia, dove dopo le caricature su Maometto, la rivista satirica Charlie Hebdo esce oggi con il titolo Responsabile, un'edizione senza illustrazioni per rispondere in modo, dicono, provocatorio agli appelli alla responsabilità che sono gli sono stati rivolti da tutti un po' nei giorni scorsi. Tutto questo alla vigilia dell'inaugurazione di una nuova grande moschea a Strasburgo. Islam sempre di grande attualità in Francia. Il settimanale satirico Charlie Hebdo, nell'occhio del ciclone per le vignette che ridicolizzano Maometto, è uscito oggi con una provocatoria doppia versione, una normale intitolata Giornale Irresponsabile e l'altra tutta bianca intitolata Giornale Responsabile. Al Louvre ha appena aperto la nuova ala sull'arte islamica. Domani a Strasburgo ci sarà l'inaugurazione ufficiale della grande moschea, la più grande del paese, mentre il segretario del partito di centrodestra UMP, Jean-François Copé, getta a sua volta un po' di olio sul fuoco denunciando il razzismo antibianchi delle periferie francesi a maggioranza musulmana. Chissà che non sia lo spunto per aprire finalmente un dibattito serio e sensato sulla dittatura del politicamente corretto che in Francia impedisce ormai ogni critica all'Islam. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Borse negative quest'oggi, Piazza Affari mette a segno un ribasso del 2,6% sul FTSE MIB, sono negativi anche gli altri indici europei e oggi l'Europa guarda ad Atene, dove c'è lo sciopero generale in Grecia. Sentiamo. Scuole, ospedali, traghetti e uffici governativi sono chiusi in Grecia nel terzo sciopero generale dell'anno e il primo contro il nuovo esecutivo guidato da Antonis Samaras. Anche i negozi resteranno chiusi, mentre i controllori di volo si asterranno dal lavoro per 3 ore. La protesta nasce dal piano di austerità di 11,5 miliardi di euro che la Troika pretende dall'esecutivo greco in cambio della tranche di aiuti. Ma Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, ha detto che la manovra non basterà a risolvere il deficit di bilancio greco a causa della recessione e dei ritardi nelle privatizzazioni. Insomma, ci vorrà un nuovo salvataggio per Atene. Lo sciopero significa l'inizio di tempi duri caratterizzati da proteste di piazza per il governo Samaras, che forse incautamente ha fatto cadere prematuramente il governo tecnico di unità nazionale guidato dall'ex vicepresidente della BCE, Lucas Papademos. I sindacati, infatti, hanno già fatto sapere che è in vista un altro sciopero generale per ottobre. Vittorio Darolda, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di cinema, perché è stato scelto il film italiano che rappresenterà l'Italia agli Oscar. Da quando ho conosciuto l'arte, sta cella è diventata una prigione. Tratta di Cesare deve morire dei fratelli Taviani. Una sorpresa o una conferma? Lo chiediamo alla nostra Marta Cagnola. Marta, buongiorno. Buongiorno Alessio. Sì, Cesare deve morire non è una sorpresa, certo è che però aveva dei concorrenti difficili da battere, perché questa mattina la commissione selezione degli Oscar per l'Italia, commissione di selezione istituita presso l'ANICA, ha scelto Cesare deve morire in un gruppo di 10 film iscritti a partecipare alla selezione. C'erano anche i film di Bellocchio, Avati, Vicari, Cipri, De Matteo, Lombardi, Özpetek, Verdone e Garrone, quindi l'Orso d'Oro aveva tanta concorrenza. Siamo felici ed è solo l'inizio di un bel viaggio, hanno commentato i fratelli italiani in una nota, perché i due registi hanno ricevuto la notizia proprio mentre si stavano imbarcando per gli Stati Uniti, dove parteciperanno in concorso al Festival di New York. Perché hanno detto che è solo l'inizio del mio viaggio? Perché effettivamente la strada è ancora lunga, le cinquine delle nomination verranno annunciate il 10 febbraio, si attende in precedenza una shortlist. Ricordiamo però che da anni nessun film italiano è più arrivato nella cinquina. L'ultimo fu La bestia nel cuore di Cristina Comencini nel 2006, mentre l'ultimo ad aggiudicarsi la statuetta nel 99, La vita è bella di Roberto Benigni. Quindi un in bocca al lupo ai fratelli italiani. Grazie Marta, e ci associamo a questo in bocca al lupo per il cinema italiano. E torniamo ancora all'estero, perché andiamo in Siria, perché la corrispondente della TV pubblica, scusate, in Iran, iraniana, in lingua inglese, Press, è stata uccisa da un cecchino a Damasco, lo riferisce il sito dell'emittente, precisando che la giornalista si chiamava Maya Nazer. Press TV riferisce che è stato ferito anche il capo dell'ufficio di Damasco della TV iraniana in lingua araba, Al-Alam Hussein Murtada. E dunque notizie poco confortanti sul fronte siriano, che rimbalza anche alla giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la 67esima Assemblea Generale dell'ONU, dove interverrà anche il nostro Presidente del Consiglio Mario Monti. Grande attesa per il discorso del primo ministro britannico Cameron e soprattutto del presidente iraniano Ahmadinejad. Libertà e diritti, di questo si parla all'ONU, all'Assemblea Generale. Di questo ha parlato ieri il presidente americano Barack Obama. La Siria, coi suoi 18 mesi ininterrotti di guerra civile, è stata un punto di partenza e di arrivo dell'intera giornata e dell'intervento di Obama. A gelare la platea ci ha pensato poi l'emiro del Qatar, Al-Thani, che però ha anche centrato il nervo scoperto dell'ONU quando, davanti all'Assemblea, ha invocato un intervento militare della Lega Araba in Siria per fermare le violenze. Un gesto forte scaturito dall'impasse in cui si trovano da mesi le Nazioni Unite per via dei veti incrociati. Oggi sarà la volta di Mario Monti, un intervento teso, come lui stesso ha detto, a favorire e migliorare la comprensione e la percezione dell'Italia. Un discorso che dovrebbe fare il punto sulla crisi economica internazionale e sulle risposte dell'Eurozona alla crisi del debito, senza tralasciare le altre grandi sfide che attendono l'Italia e la comunità internazionale: la lotta al terrorismo, l'impegno nelle missioni internazionali, nello sviluppo sostenibile e nella sicurezza ambientale. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo in Liguria. Un anno fa, ricorderete la gravissima alluvione, scusate, due giorni fa invece la frana alle Cinque Terre sulla Via dell'Amore. La regione Liguria adesso punta a incentivare la coltivazione del suolo per fermare il dissesto idrogeologico. Verrà infatti presentato a breve un progetto di legge per la formazione di cooperative con lo scopo di mettere in sicurezza i terreni boschivi e quelli non coltivati. Al microfono di Clemente Lepore, l'assessore all'agricoltura della Liguria, Giovanni Barbagallo. Inizieremo subito con l'affidamento di 6.000 ettari di proprietà regionale, facendo un progetto pilota, e andremo avanti in questa direzione, anche attraverso dei bandi che possono interessare anche aziende più complesse, soprattutto per quanto riguarda la forestazione. Per quanto riguarda la legge, la predisporremo nei prossimi mesi e quindi abbiamo l'obiettivo di aumentare la superficie utile agricola vocata all'agricoltura in Liguria, visto che la nostra percentuale è una percentuale abbastanza bassa, perché solo il 10% della Liguria è coltivato. Purtroppo l'abbandono del territorio, l'abbandono dei boschi, ma anche di quei terreni più collinari, è causa di gravi disagi, di gravi disastri anche ambientali, con conseguenze poi tragiche che sono sotto gli occhi di tutti. Ci fermiamo qua, è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Fabio Cantadori in regia, vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. È ancora la fiction a fare la parte del leone negli ascolti TV, ma i talk politici ricominciano la stagione con buone performance. Ieri sera a sbancare è stata su Canale 5 L'Onore e il Rispetto parte terza, oltre 5.800.000 spettatori, share del 21,28%. Solo 10% per Rai 1, ma la fiction Preferisco il Paradiso era una replica. Ottimo risultato per Ballarò in onda su Rai 3 con ospite Renata Polverini, 16,19%. Più forti insieme, così si chiama la campagna di Fox Life e Telefono Rosa a sostegno delle vittime di violenze. Dal 13 settembre su Fox Life uno spot per incoraggiare l'invio di un SMS del valore di 2 euro al numero 45506. Testimonial è Claudia Gerini. Da qualche anno collaboro con il Telefono Rosa. Quando c'è, in questo caso, c'è una raccolta fondi per, appunto, per finanziare case che accolgono sia donne, insomma, vittime di violenza, sia i loro figli. Per cui, siccome è una causa a cui tengo tantissimo, mi sento, mi sembra giusto, insomma, che io prenda parte a una cosa così del genere, proprio per cercare di propagandare il più possibile. Come Michele Santoro, Enrico Cisnetto, patron di Cortina Incontra, presenta Ara Pacis, un nuovo talk show in onda ogni lunedì dall'8 ottobre in seconda serata. Andrà in onda su 20 emittenti regionali. Enrico Cisnetto. Abbiamo pensato che forse l'esperienza che abbiamo fatto offrendo eventi di ottima qualità, ma nello stesso tempo godibili e fruibili al pubblico in sala, potesse essere trasportata in televisione, partendo dal presupposto che il pubblico a noi pare stanco delle solite cose e che, così come si è stancato di certa politica, si è stancato anche della rappresentazione televisiva di quella politica. E quindi ecco che sulla scorta di Roma Incontra nasce Ara Pacis. In chiusura la musica. Con il singolo Pompo nelle casse, i Power Franchise si sono candidati al titolo di portavoce dell'elettropop italiano. Ora per i tre ragazzi di Chieti, idoli dei giovanissimi, esplosi in rete, è tempo di pubblicare l'album di debutto. È una bella soddisfazione, perché effettivamente noi ai tempi, quando ascoltavamo e facevamo rap, avevamo tutti i nostri dischi dei nostri miti. Poi, dopo, a maggior ragione, un doppio album con il booklet dentro, cioè abbiamo fatto proprio... È veramente emozionante. E ci siamo incontrati a scuola e abbiamo iniziato a fare rap insieme allora. E lì, siccome credevamo in quel momento un po' ingenuamente che la cosa più simile a noi fosse la French Touch, e noi eravamo super fan dei Power Ranger, allora abbiamo messo insieme i due nomi. Poi fondamentalmente il pezzo è esploso subito, quindi non abbiamo nemmeno avuto tempo di cambiare nome. Sì, vero, perché il primo pezzo è stato un po' nelle casse, quindi ci siamo vincolati con questo nome fondamentalmente stupido. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.